E allora di nuovo buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio. Andiamo a iniziare la rassegna stampa locale della città. Abbiamo un ospite al telefono. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e a tutte, così diciamo noi qua, non si sa bene perché, ma insomma è una vecchia tradizione. Appunto Ilenia del Teatro Valle Occupato. Perché l'abbiamo voluta con noi all'inizio della rassegna stampa? Perché su tutte le prime pagine dei quotidiani locali campeggia questa sorta di tensione che è stata aperta dalle dichiarazioni del neo premier Renzi proprio sul Teatro Valle. Vediamo il Corriere della Sera che titola così: Teatro Valle, la condanna di Renzi, il premier incaricato per risanare la cultura, alternative possibili. Matteo Renzi, che forse per la prima volta entra così direttamente nelle questioni romane, si abbatte come un ciclone sulle politiche culturali della capitale. Stronca l'esperienza del Teatro Valle Occupato. Quando mi dicono che per salvare la cultura si deve fare come al Teatro Valle di Roma, spiega Renzi, dico che ci sono alternative possibili. Il Valle era nelle stesse posizioni del Teatro del Maneggio a Firenze, che ha visto l'amministrazione intervenire, e oggi quel teatro è il teatro più antico d'Europa, ha una propria produzione. Preoccupazione, vabbè, e poi entra un po' invece su vicende anche un po' più serie. Il decreto salva Roma, infatti l'articolo titola: il decreto salva Roma a rischio, si allungano i tempi. È importante inquadrarlo perché la politica locale e nazionale, quando tocca la cultura, poi ha sempre dei retropensieri. Però siamo su questo, che ci dici? Ma allora, a parte che appunto Renzi si era espresso passato, perché come sapete la vicenda della pergola è collegata alla vicenda del Teatro Valle Occupato, del Teatro Valle, diciamo, perché ambedue i teatri, insieme a un terzo teatro che era il Teatro Duse e in passato una partnership col Teatro Quirino, erano i teatri gestiti direttamente dall'ETI. Quindi diciamo sono teatri che sono collegati l'ETI nel percorso. Lo diciamo per l'ETI nostre... era l'ente teatrale italiano. Grazie. Diciamo che il nostro paese, di questo forse Renzi come premier dovrebbe occuparsi, non ha più un ente teatrale nazionale. Dentro il decreto Monti, quindi all'interno di un decreto che si occupava Tremonti, che si occupava prevalentemente di economia, senza nessuna consultazione con operatori del settore eccetera, fu letteralmente cancellato l'ente nazionale del teatro. Quindi in Italia in questo momento non esiste un ente che coordini sul piano nazionale l'attività teatrale. Ora l'ETI negli anni, come spesso succede in Italia, è stato anche un grande baraccone del teatro pubblico. Ciò nonostante all'epoca, ma credo ancora, ci sembrò assurdo che, no, un po' come buttare via il bambino insieme ai panni sporchi. Tutti i paesi che ovviamente ritengono che il teatro sia un'attività di una certa importanza hanno comunque un ente di coordinamento nazionale, perché questo ente ha anche la funzione di avere una visione sul teatro a livello nazionale, non soltanto locale, promuovere delle politiche per i giovani talenti e soprattutto promuovere la scena italiana all'estero. Questo è il ruolo. Ora non si può pensare che un singolo assessorato, un ente locale, certo ci possono essere amministratori molto illuminati o dei bravi operatori che poi si muovono, o quello che sta succedendo direttamente gli artisti, questo sta succedendo in Italia, che direttamente gli artisti, spesso in modo indipendente, promuovono le proprie opere all'estero. Quindi questo è quello che è accaduto. Ora non so perché Renzi sia contento di come è andata la pergola era un teatro pubblico appunto gestito dall'ETI. Quello che è accaduto è che a Firenze per la pergola si è creata una fondazione classica, una fondazione pubblico-privato, dove rappresentanti delle amministrazioni sono dentro il CDA, direttamente rappresentanti quindi anche dei partiti, e decidono sulla direzione artistica del Teatro La Pergola. Insieme ci sono i privati e insieme ci sono le fondazioni bancarie. Tu sai che i manager, no? Quando c'è questo racconto, questa favola che gira, no? Che la cultura deve essere gestita dai manager, che i manager attirano risorse, i famosi manager degli hamburger che devono gestire il patrimonio culturale e artistico di questo paese, no? Però sì, poi soprattutto specialmente quelli di prima fila fanno pochi manager, sono molto amici di alcune banche, le solide, quelle che hanno le fondazioni, quelle tipo Monte dei Paschi, e in genere decidono quali quadri attaccare alle mostre. Peccato che spesso, adesso faccio l'esempio dei quadri, spesso di quadri e di mostre, non capiscono nulla, ma non capiscono nulla perché non è il loro settore, non è il loro interesse, ma questo è un dettaglio. Certo, insomma, un bel segnale pesante, perché il segnale di questa presa di posizione, anche se sicuramente scatenerà un dibattito, farà prendere posizioni diverse, c'è anche, è arrivata la letterina, il prefetto non è perfetto, ci vuoi aggiornare pure su questo? Allora, sì, è arrivata la lettera, siamo usciti oggi con un comunicato in cui sostanzialmente riassumo per farvi capire, perché è anche una questione tecnica. Ho trovato curioso questo fatto, no? Che il prefetto sostanzialmente dice: abbiamo bocciato la richiesta della fondazione di costituirsi in fondazione del Valle, perché lo stabile in cui ha sede la fondazione, correggimi se dico un'idiozia, non è nella disposizione della non è a disposizione, non ha titolo la fondazione, certo, per stare lì. Sì. Che sembra un discorso, cioè, se non fosse Pirandelliano sarebbe alla Edoardo, non so, è anche una botta anche artistica, secondo me, cioè, se valutata bene è anche, cioè, degli ossimori alla Catalano, insomma. Ovviamente, diciamo, la palissiano, perché è evidente che il Teatro Valle, il bene, l'immobile, non è di proprietà di chi sta presentando questo progetto. Ora, il prefetto non poteva che dare una risposta tecnica, e l'ha data in termini tecnici, ma sostanzialmente ridescrivendo con un giro di parole l'esistente. Ora, qual è la questione? La questione è: la proprietà dell'immobile è del demanio, la gestione di quell'immobile pare come una perché anche qui pochissima trasparenza, non si sa i passaggi dal ministero, il comune. Scusa, ti interrompo soltanto per dirti questo, per i nostri ascoltatori, no? Il demanio sembra un signor demanio. Il demanio è quella proprietà indivisa che appartiene a tutti i cittadini e che fa capo allo Stato, ma che va dalle spiagge alle montagne, esatto, alle miniere, che la nostra Costituzione considera un patrimonio generale. Poi c'è un'amministrazione del demanio statale, certo, piuttosto che, credo, anche addirittura degli enti locali. Però, insomma, sostanzialmente il demanio è quel patrimonio indivisibile di cose che non dovrebbero appartenere a nessuno perché appartengono a tutti. Esatto, tra l'altro il demanio che hai ben spiegato è esattamente ciò che in questo momento viene saccheggiato, nel senso, in momenti di questo momento di crisi, di debito pubblico, eccetera, lo Stato, i governi dello Stato italiano che si sono succeduti hanno pensato bene di svendere tutto questo patrimonio, quindi letteralmente pensiamo alle spiagge, pensiamo a tutte le polemiche sulle spiagge, le caserme, anche grandi aree diciamo edificate o ex di archeologia industriale, ex caserme, ex conventi, tutte queste proprietà che sono dello Stato, ma come titolarità, diciamo, di questo sarebbe sovrano il popolo italiano, ecco, invece vengono svendute continuamente. E quindi, diciamo, la proprietà del teatro è questo. Ora, che il prefetto si pronunci così, noi ne diamo questa lettura. È evidente che il prefetto non può assumersi in alcun modo una responsabilità politica come quella di approvare una fondazione bene comune, che è comunque una grandissima innovazione, una conquista dal punto di vista dei diritti e del riconoscimento della società civile. Capisci bene che da parte del prefetto, politica che non si sono prese, diciamo, le amministrazioni. Si capisce bene che dal prefetto, se il prefetto avesse accettato uno statuto che ha come sede il Teatro Valle occupato, sarebbe stato un avallo che forse, ma questo non competeva neanche al prefetto di fronte a una politica, come dire, un po' certo, un lassista. No, è chiaramente era una provocazione per far nascere anche il dibattito, immagino, no? Nel caso in cui le amministrazioni, anche le amministrazioni locali, come abbiamo chiesto da settembre, avessero accettato di incontrare diciamo la comunità che si sta occupando di questa esperienza, di aprire neanche assegnare il posto, ma anche mostrarsi interessati all'apertura di un percorso pubblico partecipato di discussione, è ovvio che il prefetto avrebbe potuto fare tutta la scelta, no? Perché la questione è anche detta insomma, tra le righe della lettera, mancando un'assegnazione del posto. È abbastanza chiaro. Non si riconosce la proprietà. Ora, altra questione, invece più interessante, politicamente interessante per tutte e tutti noi, che comunque nelle nostre vite quotidianamente ci viviamo anche gli effetti delle politiche dei governi. Questo è proprio il centro un po' della visione, delle prospettive intorno ai beni comuni, cioè che la proprietà di per sé non debba determinare l'uso che se ne fa. Cioè se io posseggo come collezionista privato un quadro di Raffaello, ecco, non è che posso deciderne tutto, non posso decidere di bruciarlo, non posso decidere di farne dei francobolli. Allora, questo svincolare la proprietà dall'uso che se ne fa, e quindi la prospettiva anche che l'uso debba essere qualcosa di sociale, di socializzato, di condiviso, su cui poter esprimere le nostre opinioni, poter esprimere i nostri desideri, le nostre volontà, su come vengono gestite le città, come vengono distrutte dalla speculazione, su come viene gestita la cultura, su come viene gestita l'istruzione. Cioè, abbiamo perso qualsiasi, come cittadine e cittadini, qualsiasi possibilità di dire la nostra. Senti, io ti intervallo il tuo intervento così proprio brevissimamente sulla invece la pagina della Repubblica che si occupa di questo fatto. Sì. La capitale e la cultura, Renzi, due punti, il Valle non è un esempio, questa è la sua dichiarazione, ma lui ama la cultura Disneyland. Botta sì. Risposta tra gli occupanti e il premier incaricato dopo il no del prefetto della fondazione, magari sarebbe interessante andare a vedere un po' più nel dettaglio. La cosa che volevo provare a ragionare con te, poi ci sarà tempo per affrontare nel più nello specifico, anche perché abbiamo altre notizie della rassegna stampa cittadina, però provare a collegare questa piccola vicenda che stranamente poi va, come dire, a toccare un nervo così scoperto, no? Cioè, governo in formazione, problemi enormi. Però mi ha colpito, no? Perché poi accanto a questa vicenda del Valle, in ballo su Roma c'è il famoso decreto Salva Roma. Il decreto Salva Roma è questo decreto che dovrebbe assegnare questi fondi supplementari per tenere il deficit a livello, diciamo, come dire, accettabile della capitale, che è profondamente in crisi da un punto di vista finanziario. Tant'è che il Corriere della Sera, in maniera un po' più raffinata, li lega proprio nella testata dell'articolo di oggi. Decreto Salva Roma a rischio, si allungano i tempi. Il neo segretario Melilli, adesso non abbiamo più alibi. E poi c'è segnalata una cosa interessante, proprio una dichiarazione dell'Anzillotta di Scelta Civica, e dice: sono contro il decreto, non lo voterò. Allora, siccome sul decreto Salva Roma, adesso non voglio parlare specificamente di questo, ma su questo intreccio tra politica, affari, gestione degli affari, c'è in ballo la privatizzazione della CEA, dell'AMA, dell'ADA, che c'è un ricatto alla maggioranza politica di questa giunta, no? Che anche sul Valle ha stentato sicuramente nella capacità di dialogo, che però contemporaneamente c'è da dire che non si è certo mossa per ottenere contro il rilascio dei locali, ecco. Certo. Insomma, lo vogliamo dire, insomma, diciamo. Un po' la sensazione nostra, per questo anche abbiamo più volte sollecitato l'apertura di un dialogo, perché crediamo che ci debba essere una dialettica politica viva tra la società civile e i rappresentanti dentro le amministrazioni. Ecco, un po' la sensazione è che questa giunta sia in qualche modo in ostaggio, sia molto fragile, sia molto debole, non riesca ad esprimere delle politiche convincenti quasi su nessun piano. Una città, Roma, che è in emergenza da un punto di vista culturale, il macro a rischio chiusura, India, il teatro India, che oddio, era il teatro hai sentito l'ultima proposta per il macro, di darlo non so a quale stilista che lei proporrebbe di farci le sue sfilatine? Cioè, siamo a dei livelli di follie. Questo è il modello. Di follie totali. Questo è il modello. Proprio, Ed è molto, molto rischioso, perché si sta fermando ovunque in una città con una emergenza anche sociale. Parliamo solo dell'emergenza abitativa. Ci sono decine di migliaia di persone, di nuclei familiari, che a Roma sono senza casa, in una città completamente devastata, perché se usciamo dal bellissimo centro storico e andiamo nel resto della città, vediamo una città completamente devastata dalla speculazione edilizia, dalla mancanza di piani regolatori, dalla mancanza di condivisione con i cittadini su qualcosa che li riguarda da vicino, cioè come vivere, come creare una città dove gli speculatori la fanno da padroni. Lo sappiamo benissimo, Caltagirone, che è anche azionista di maggioranza di gran parte degli organi di stampa, che costruisce enormi palazzi, quartieri con i nomi degli avi, che poi non forniscono nessun tipo di infrastruttura. Una città che ha il più alto numero di case sfitte, cioè da questa amministrazione ci aspetteremmo che prendesse in carico le questioni di cultura, le questioni sociali. Immagino che sì. Io neanche me lo aspetterei, ma aspetterei che cogliesse al volo la palla, al balzo la palla di porre una questione politica più generale, e che in qualche maniera molto opportunisticamente sfruttasse la possibilità di mobilitazione e di visibilità su alcuni temi per rilanciare anche il proprio progetto e programma. Però sappiamo che l'amministrazione è molto divisa al suo interno, con molto debole. Senti, però questo è molto pericoloso, perché certo. Ovviamente in momenti come questo, lo dico anche perché c'è una grande preoccupazione dal momento in cui è arrivata la Digos al Valle, adesso ovviamente la lettera del prefetto, le dichiarazioni di Renzi aggravano, come dire, come dicevi tu, c'è un cambiamento di clima di cui dobbiamo prendere atto collettivamente, perché il momento in cui la politica, in questo caso l'amministrazione, è assente, molto facilmente tutte le esperienze di lotta, le esperienze che lottano per conquistare dei diritti, quindi anche come spesso succede nelle lotte, anche oltrepassando il confine tra ciò che è legale e illegale, proprio per poter avanzare a disporre di una sorta di legalità aumentata, conquistare diritti. I diritti si conquistano proprio infrangendo là dove non sono contemplati. E quando la politica non c'è, il rischio è che tutto venga trattato come una questione di ordine pubblico. La dichiarazione di Renzi è ovviamente indicativa da questo punto di vista. Mi viene anche da dire che questo sarebbe interessante politicamente per tutti quanti, da un punto di vista del dibattito ma anche dell'azione comune. Il modello culturale di Renzi noi l'abbiamo visto all'opera in modo molto chiaro, ed è il risultato è la città di Firenze, che è veramente un parco giochi del Disneyland del Rinascimento. Quindi c'è un modello tutto a favore dei privati, a favore degli sponsor, dove cioè, i beni proprio artistici vengono in qualche modo appaltati, dove vengono privatizzati i profitti. Quindi gli utili, chiamiamoli utili. Quelli che sono gli utili vengono privatizzati, diventano profitti. Sì, perché poi voglio dire, alcuni beni culturali producono degli utili. Pensiamo a Roma, certo, allo stesso Colosseo, no? Cioè come moltiplicatore di presenze nella capitale, e l'appetito di trasformarli in profitti, questi utili che potrebbero essere utilmente reinvestiti nella manutenzione del patrimonio culturale, devono essere reinvestiti a profitto. Ma questo, oltre al fatto che ci sono, ad esempio, in tutti i paesi anglosassoni, che sono i paesi più rivoluzionari del pianeta, no? Però paesi dove comunque c'è una coscienza civile intorno alla cultura, è una cosa normale che i musei abbiano un giorno alla settimana di ingresso gratuito o delle fasce d'orare in ingresso gratuito. Questo permette anche ai cittadini, cioè se noi che abitiamo a Roma siamo a un livello imperiali, ogni volta dobbiamo spendere 12 euro. Sì, siamo a un livello ancora più basso, no? Nel senso più drammatico. Se tu pensi che entri al Palazzo delle Esposizioni a vedere una mostra, quel biglietto ti vale per quel momento e non ci puoi tornare. Cioè, voglio dire, se c'hai mezz'ora la vedi per mezz'ora, se c'è una giornata la vedi per una giornata, devi stare chiuso dentro, perché se esci, certo, siamo a livelli, diciamo, un po' infantili, no, di gestione della cultura. Sì, detto questo, però, so che voi avete una mobilitazione, un'assemblea, sì, un'assemblea, sì, pubblica, che lanciate per venerdì, questo venerdì, quindi venerdì 21 alle ore 17. Ovviamente sarà una serie di iniziative che pubbliche, insomma, di in qualche modo di chiamata, di confronto con la città, anche sul piano nazionale, per rispondere a questi attacchi anche che vengono portati all'esperienza del Valle, perché sappiamo bene che il percorso sul riconoscimento dei beni comuni è un percorso lungo, cioè si tratta di, a parte appunto i beni comuni siano in qualche modo nominati dentro la nostra Costituzione, ce l'ha ricordato più volte in modo altissimo il professor Stefano Rodotà, ma tutti anche i giuristi che stanno lavorando al Valle, alla Costituente dei beni comuni, che era un organo che si riuniva dentro il Parlamento e che in qualche modo invece da un anno si sta ritrovando al Teatro Valle per scrivere un codice possibile dei beni comuni. Questo per dire di quanto questa esperienza non si pensa come autosufficiente o come isolata, ma è un'esperienza profondamente rappresentativa. Quindi, scusami se sono così un po' frettoloso. Venerdì, certo. No, c'è tanto da dire, però c'è anche tanto da dire di altre cose. Purtroppo questa città è piena di, tra virgolette, anche emergenze, e quindi certo, vorremmo occuparci anche di qualcos'altro, non quindi perché non sia importante. Vi invitiamo tutti a partecipare come singoli, come esperienze collettive, come associazioni, come artisti, come chi lavora nella cultura, e sono molti a Roma se ci pensiamo, no? Chi lavora nella comunicazione, chi lavora nell'arte, chi lavora nell'istruzione, ma tutti i cittadini, perché anche chi non lavora, chi vorrebbe lavorare nell'arte. Noi purtroppo lavoriamo tutti, ma in modo talmente precario che ovviamente non è. Sì, era solo una battuta. Perché forse c'è più, certo, gente che non lavora di quelli che lavorano in questo mondo, in questo, la maggior parte, in questo direi. Momento. Va bene, noi ti ringraziamo e niente. Va bene, ciao, grazie. Grazie, buona giornata, grazie. Ciao. Allora, questo era un piccolo, come dire, una piccola parentesi su questa vicenda che però assume sicuramente un rilievo nazionale, perché rimanda ai modelli culturali del neo premier. In particolare per quanto riguarda invece la pagina un po' più diversa, non vorremmo dire più importante, perché poi su questo magari poi ci accusano che insomma non riteniamo che con la cultura non si mangia, però insomma un po' diversa è proprio questa, come si lega questa vicenda anche proprio alla vicenda dei decreti in scadenza. Dicevamo delle cronache del Corriere della Sera: allarme salva Roma, si allungano i tempi, il decreto ora è a rischio. Lanzillotta, Linda, per scelta civica non va votato. Voi sapete, ve l'abbiamo raccontato diverse volte, scelta civica tenta di introdurre con un emendamento proprio della Lanzillotta una serie di regali ai privati che vogliono diventare proprietari dell'AM, dell'ACEA, dell'ATAC, che vogliono, diciamo molto chiaramente, licenziare una parte dei lavoratori, quelli più costosi, e saccheggiare quel demanio, noi lo chiamiamo demanio, quei beni collettivi che sono frutto anche del sacrificio, del lavoro, degli investimenti storici di una città, per farli funzionare meglio. E su questo potremmo aprire una parentesi su come va con l'acqua, come va con i rifiuti gestiti dai privati, come sono andate certe privatizzazioni di servizi pubblici nel mondo. Ma noi ci fermiamo qui su questo argomento, perché lo approfondiremo domani, mercoledì, ne parleremo con un redazionale più esteso, anche in collegamento con i lavoratori che verranno investiti direttamente da da tutta questa vicenda. Una piccola pagina che volevamo aprire sempre sulla cronaca locale riguarda il nostro ineffabile tempo. Il tempo, ma non è il tempo meteorologico, è il tempo giornale. Sapete della drammatica notizia della folle emarginazione di un senza tetto che viveva in una roulotte, che è stato protagonista purtroppo di un omicidio brutto, una brutta vicenda che ha riguardato un ragazzo di 33 anni ucciso con un colpo di cacciavite. E su questo il tempo è riuscito a costruire veramente un film eccezionale. Il titolo è, l'articolo è del 18, cioè quindi l'articolo è sostanzialmente di oggi, indiani liberi di uccidere gli italiani. E qui insomma siamo proprio all'allusione, perché voi sapete che c'è questa campagna su i Marò, portiamo i Marò a casa, che sono prigionieri in India, gli stessi Marò che hanno fucilato gli pescatori indiani al largo delle coste indiane, no? E qui si fa questo purpuri, si cerca di, come dire, in qualche maniera di accendere questa miccia. È una miccia pericolosissima, perché riguarda una parte di città, di cittadini di questa città in difficoltà, che vivono per strada e che spesso nella disperazione arrivano a dei livelli anche di violenza su se stessi, sugli altri, per la condizione in cui vivono. Su questo si tenta di ricamare nella maniera più vergognosa, perché appunto si tenta di collegare due vicende completamente diverse. Recita così: un ragazzo romano di 33 anni ucciso con un cacciavite da un barbone indiano di 57. Il motivo? La musica troppo alta. L'assurdo omicidio capita in un giorno in cui si racconta un'altra storia assurda, quella dei nostri due marò, Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, accusati di aver ucciso due pescatori indiani, che oggi compariranno davanti alla Corte Suprema. Insomma, questo è un pezzo di questa Roma terribile. Terribile, perché sfrutta proprio questi sentimenti di terribili, bassi, bassi, bassi. Questa è la proposta anche di dinamiche da costruire con chi viene a vivere in questa città. Noi, insomma, proprio sabato scorso eravamo di fronte al CIE di Ponte Galeria, noi tutti quanti collettivamente a denunciarlo concretamente, quella che è la realtà di violenza e di emarginazione di tante e tanti migranti che vivono nel nostro paese. Crediamo che sia necessario esprimere con forza tutto lo sdegno per questi tentativi vergognosi di creare delle fratture sociali che possono generare atti di xenofobia molto molto molto pericolosi. Noi ci prendiamo solo un attimo e vediamo di aprire un'altra paginina per quanto riguarda la rassegna stampa cittadina. Give me a ticket, hold your plane. Be right home. But baby, hold me a legend. I don't care how much money I've got to spend. I'm gonna find my way back home again. The lonely days are gone. I'll be right home. Torniamo in diretta, parliamo ancora del Salva Roma. Ci eravamo dimenticati almeno di analizzare la pagina della cronaca di Roma del Messaggero, che è particolarmente interessato. Siamo al telefono con Paolo Carzetti, dico bene? Assolutamente. Sì, del Roma non si vende, forum per l'acqua pubblica, dico bene? No, non dico bene. Ah, sì, sì. Sì, perfetto. Allora, insomma, la cronaca di Roma del Messaggero, forse anche del Nazionale, ma io l'ho trovato sulla cronaca di Roma, recita così: il Salva Roma appesa a un filo. Il decreto è al Senato e scadrà il 28 febbraio. Adesso la capitale rischia il fallimento. Il diktat di Scelta Civica, non ci sono le condizioni per votarlo. Il governo lo ritiri. A rischio la conversione in legge del decreto Salva Roma, la capitale rischia il fallimento. In quel provvedimento ci sono i puntelli su cui si reggono i bilanci del 2013 e 2014. Ieri pomeriggio Linda Lanzillotta, senatrice e membro della commissione bilancio, ha annunciato che Scelta Civica non voterà il Salva Roma. Non ci sono le condizioni per un esame serio dei problemi che il Salva Roma pone, così com'è per quanto riguarda Scelta Civica, non può essere votato. Chiediamo al governo un atto di responsabilità, ritiri il decreto per consentire al nuovo esecutivo di affrontare i problemi di Roma senza il condizionamento di decisioni sbagliate. Il sindaco ha chiamato esponenti del governo per avere rassicurazioni, il sottosegretario Giovanni Legnini, il Salva Roma sarà approvato. Il dibattito in commissione è andato avanti fino a tardi, il decreto deve essere convertito in legge entro il 28 febbraio. L'articolo poi prosegue: a rischio la conversione in legge, lo stop, l'ultima chance, varrebbe la pena leggerlo tutto, però insomma si scrive in quel discorso che abbiamo fatto anche la settimana scorsa, noi ne riparleremo domani in maniera un po' più organica, però qui sembra proprio che si sta col nuovo governo stringendo il cappio intorno a Roma. Ne parlavamo prima con il Valle Occupato sulle dichiarazioni di Renzi, che sembrano entrarci poco, ma in realtà anche lì ci troviamo di fronte, come dire, a un'accelerazione per certi versi su modelli che privilegiano più la partnership pubblico-privato, in cui il privato la fa da padrone. Che idea ti sei fatto, o perlomeno che elementi hai in più, o comunque che cosa ci vuoi dire su tutto questo? Ma guarda, elementi in più non tanti, perché appunto il dibattito mi sembra all'interno del Parlamento, soprattutto su questo decreto, diciamo, mi sembra abbastanza compulsivo e in evoluzione, direi quasi minuto per minuto. E ora, io non avevo avuto modo di leggere queste dichiarazioni di Lanzillotta, però mi sembra chiaro che quello che emerge è che non essendoci le condizioni per approvare il suo emendamento, il suo emendamento in cui si prevede la definitiva privatizzazione di Roma rispetto al demanio, rispetto ai servizi, rispetto alle partecipate, eccetera, dica facciamo decadere il decreto, visto che altrimenti si voterebbe così com'è, quindi cassando tutti gli emendamenti, e poi sulle privatizzazioni ne riparleremo con il nuovo governo, che sembra molto intenzionato a seguire quella strada. Quindi diciamo è un rinvio però a tempi migliori dal punto di vista della Lanzillotta. Cioè, se adesso facciamo, diciamo, o raggiungiamo un piccolo compromesso sulle privatizzazioni con il PD, diciamo non ci sta bene, ma vogliamo appunto rimandare a quando sarà in campo e in sella il governo Renzi, in cui invece lì riusciremo a imporre, diciamo, quello che è il pensiero neoliberista che sì, peraltro vedi il Messaggero, pur con grandi interessi su questo, ci dà qualche elemento in più, ci dice: senza Scelta Civica l'emendamento del capogruppo del PD Giorgio Santini, mediazioni su dismissioni, piano antidebito e chiusura delle partecipate, qui parliamo di Zetema probabilmente e delle addentellate, sì, in particolare, sì. Potrebbe trovare a sorpresa il sostegno di Sinistra, Ecologia, Libertà e del Movimento 5 Stelle. Un colpo di scena tutto da verificare ancora, ma che sarebbe legato al dialogo che Marino dice di aver sempre avuto col Movimento 5 Stelle su Roma. Ma non è solo un problema di numeri e di equilibri, Scelta Civica e decisiva in commissione, c'è il nodo dei tempi. Ieri la riunione di capigruppo al Senato ha deciso di far slittare il voto del Salva Roma, anticipando quelli su carcere e destinazione Italia. Inoltre, per quanto riguarda, cioè, in realtà è come se intorno a questa questione si stesse proprio giocando un po' veramente il momento di passare, cioè il vuoto di potere, il vuoto di sovranità, sì. No? Una nuova sovranità che viene, il vuoto di sovranità che va. Che come sì. La vedi? Ma guarda, secondo me insomma la strategia che sta tentando di portare avanti la Lanzillotta è quella di dire: se riusciamo a far decadere questo decreto, diciamo il cappio al collo intorno al Comune di Roma si stringe al massimo, nel senso che c'è un ricatto fortissimo rispetto al fatto che c'è il buco di bilancio rimane scoperto, e quindi poi successivamente diciamo potremmo forzare ancora di più la mano per inserire diciamo eventuali privatizzazioni, o okay. Che questo mi sembra il tentativo che sta cercando di fare Scelta Civica e in particolare la Lanzillotta. È evidente che più si va avanti nel tempo e più diciamo l'amministrazione comunale sarà costretta a cedere ai diktat appunto dei privatizzatori. Gian Marino qualche giorno fa ha iniziato a dire ma diciamo il compromesso raggiunto con questo famoso emendamento Santini ci può andar bene, perché comunque Acea viene salvaguardata e quindi l'acqua pubblica rimane come tale. Diciamo questa è una provocazione, perché sappiamo che Acea non è pubblica per niente, ma anzi è totalmente privata e cioè privatizzata, quindi quotata in borsa. Per cui diciamo figuriamoci se appunto continuano a non arrivare quei centinaia di milioni di euro nelle casse del comune, che cosa sarà disposta a fare l'amministrazione, soprattutto con un cambio di governo in cui sembra che appunto diciamo la corrente privatizzatrice, liberalizzatrice sarà molto più forte anche di quella del governo Letta. Per cui diciamo che la situazione non è assolutamente così delle migliori, e anzi rinnoviamo diciamo l'invito alla mobilitazione su tu questo, mi confermi perché, vero? Per giovedì confermiamo, al momento confermiamo assolutamente, perché sembra che comunque appunto come dicevi te all'ordine del giorno è stato messo alla discussione del Senato. Ora non penso che inizierà oggi il dibattito in aula, però sembra che il 20 diciamo cascherà ad hoc il presidio che abbiamo convocato proprio sotto il Senato alle ore 15, e per come si sta mettendo la discussione credo che lo confermiamo assolutamente al momento. Poi se ci saranno novità per cui alla fine effettivamente passerà la linea Lanzillotta, per cui il decreto verrà lasciato decadere, allora ci riaggiorneremo, ma secondo me al momento bisogna cercare di fare tutta la pressione possibile affinché appunto queste cose non rientrino in questo decreto, né oggi ma neanche nel futuro, perché appunto un conto è dire no, facciamo marcia indietro su questa strada e non se ne parla proprio più, un conto è fare il discorso della Lanzillotta, non ci sono le condizioni per far passare la totale privatizzazione e ne riparliamo nelle prossime settimane. Ecco, questo non è assolutamente possibile. Sì, è tutto talmente chiaro. Tieni presente che la pagina del Messaggero, che appunto racconta tutti i retroscena del decreto, poi ha al suo diciamo al suo subito sotto diciamo la parte più significativa, nella pagina precedente tutto un attacco sugli stipendi dei dipendenti del comune, in cui il comune avrebbe fatto marcia indietro. Questa è un'altra pistola puntata, no? Sul comune, sulla questione degli stipendi. E poi PD per il sindaco, la grana dei popolari, e resta lo scoglio del rimpasto di giunta. E qui insomma no, va a scavare dentro tutte le contraddizioni che ci sono in questa anche giunta. Questo è emblematico, cioè il giornale di Caltagirone che dà una sponda così forte a Scelta Civica, lì veramente sembra che è sempre più evidente che Scelta Civica, in particolar modo la Lanzillotta, fungono da braccio armato. Lavora per i grandi potentati romani, e non solo, in questo caso romani, perché in ballo ci sono diciamo. Sì, pensa all'articolo, l'articolo si chiude dicendo: a farne le spese però rischia di essere la strada del rigore, no? C'è cioè questa prosopopea da quale pulpito il menzognero, che insomma voglio dire, si fa garante del rigore economico, veramente. Sarei curioso, perché nel famoso diciamo emendamento anche Lanzillotta, o anche nella versione attuale del decreto, c'è una sorta richiesta di audit sul debito, no? Cioè c'è scritto che un obbligo a presentare un piano di rientro rispetto al debito, ma anche a fare, diciamo, a costituire, diciamo, una sorta di commissione o comunque a fare uno studio su come sia stato creato quel debito. Non vorrei che questa cosa si ritorca contro l'Anzillotta, visto che lei è stata... ma lei non c'ha, qualcosa ne sa, qualcosa ne sa. Qualcosa secondo me ne sa e qualche responsabilità anche, quindi se si scava molto e troppo si arriva anche a lei, diciamo, come causa. Guarda, io te lo posso testimoniare perché quando era assessore al bilancio abbiamo avuto più e più volte lunghi confronti, riguardava la questione della delibera sui centri sociali, ma insomma intorno poi ci sono state vicende molto grosse anche di privatizzazioni, non so se ve li ricordate, la centrale del latte, per non parlare dei pezzi e pezzi di privatizzazione sono venuti avanti. Acea stessa è stata privatizzata, sì, un po' più avanti insomma, voglio dire, in tempi differenti. Va bene, noi ti ringraziamo tanto, l'unico appello che io mi sento di fare qui dalla radio, ma un po' perché cerchiamo di collegare un po' tutti questi fatti e queste mobilitazioni, venerdì c'è questa assemblea cittadina che il Valle convoca sulla vicenda del teatro, ma sulla vicenda di un altro, come dire, un altro modo di guardare alla possibile gestione dei beni pubblici. Giovedì c'è questa mobilitazione, i movimenti per il diritto all'abitare hanno messo al centro la questione, per così dire, del che fine fanno i beni pubblici che sono i diritti di edificabilità dentro questa città, gli spazi abbandonati, hanno, come dire, puntato alla cassa depositi e prestiti, e questa aprirebbe tutta una discussione sui mariti, le mogli della Lanzillotta e via dicendo. No, lo possiamo dire con chiarezza, Bassanini, che credo che adesso sia il presidente della cassa depositi e prestiti, come no, sì. È il marito della Linda Lanzillotta e si muove oramai con una macchina da guerra che gestisce i soldi del risparmio postale per, come dire, fare con i soldi pubblici quello che meglio gli aggrada, e quindi anche grandi operazioni di privatizzazioni di social housing cioè quindi di alloggi in forme curiose. Insomma, a me piacerebbe che un giorno o l'altro questi pezzi si incontrano e provano a proporre collettivamente un punto di vista collettivo insieme diverso. Lo fanno anche già, però insomma mi sembra che le mobilitazioni rischiano di essere un po' spezzettate, un po' perdenti. Ma guarda, da questo per esempio, punto di vista ti posso dire su questo che sul 20, diciamo, è costruito il presidio è stato costruito proprio in modo coordinato anche con i movimenti per il diritto all'abitare. Poi so che appunto ci sono altre mobilitazioni in programma probabilmente nella seconda parte del pomeriggio, però appunto abbiamo cercato di costruirle proprio insieme, visto che comunque è una cosa che non è che riguarda, diciamo, il movimento per l'acqua o una parte dei movimenti sociali, delle realtà sociali romane, ma appunto questa è una cosa che investe tutti, tant'è che ragioniamo anche, qualora si andasse avanti nella discussione, su una mobilitazione più forte nella prossima settimana, probabilmente sarà il 27, però appunto cerchiamo di essere e muoverci assolutamente in modo coordinato, perché si è intuito che al momento, diciamo, nessuno può essere indipendente, autonomo, ma appunto in questo caso veramente l'unione fa la forza. E appunto di fronte a attacchi così forti ci piacerebbe vederlo, come dire, anche in termini non solo, diciamo, come dire, di intenti e nelle riunioni, ci piacerebbe vederlo anche nelle mobilitazioni. So che è molto più complicato perché poi le lotte hanno la loro identità, la loro specializzazione, le singole vertenze. Va bene, insomma, siamo contenti che comunque c'è questo livello. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie a voi, a presto. Ciao. Un abbraccio a tutti. Allora, questo era appunto Paolo Carzetti del Roma non si svende, forum per l'acqua pubblica. Abbiamo provato a inquadrare questa piccola vicenda che vi continuiamo a ripetere, verrà trattata domani in un redazionale in maniera più articolata. Noi alle 11:30, se tutto va bene, abbiamo un appuntamento per parlare di CIE, non qui da noi, ma anche qui da noi, ma anche in Germania, per capire come vanno certe cose, perché insomma sabato c'è stata una manifestazione, ma è un percorso di lotta che va alimentato e costruito. Noi ci prendiamo qualche minuto di secondo e torniamo, facciamo una giravolta spaziale e torniamo al valle, perché ne continuiamo a parlare, magari per qualche minuto soltanto, per capire anche un po' meglio, al di là della necessità di difenderlo e di proporne le ragioni, anche un po' di cercare di stricarsi un po' anche su tutte queste proposte che vengono fuori, no? Nel senso, da un punto di vista di prospettiva un po' più generale.